Capitolo 8. Venezia. 1 giugno 1545. Pietro Perna è arrivato in città. Ha lasciato un messaggio per me alla libreria di Arrivabene, fissando l'appuntamento nella bottega di Jacopo Gastaldi, un pittore a cui desidera commissionare un quadro. Il maestro sta istruendo uno degli apprendisti sul colore da usare per completare un disegno. «Messer Perna non è arrivato?» domando dalla porta. Un cenno della testa mi invita a entrare. La tela sul cavalletto è davvero grande e ritrae Venezia, a volo d'uccello. Incredibile labirinto d'acqua e terra, pietra e legno, dimora di almeno 150.000 persone di diversissime razze, con chiese in numero superiore a 100, 65 monasteri e forse 8.000 case da meretricio. Per qualche istante la sorvolo. Colpisce subito l'assenza di mura e di porte, di torri difensive e bastioni. L'acqua della laguna pare sufficiente a scoraggiare i peggiori nemici. Molti palazzi, d'altronde, sono alti come e più di qualsiasi muraglia e potrei scommettere che ci vorranno tutti i colori della tavolozza per dar ragione delle tinte e dei marmi che si affollano su queste facciate. Con il consenso del Gastaldi inganno l'attesa aggirandomi tra i dipinti, terminati e ancora in corso d'opera. Un quadro ben più piccolo del precedente raffigura un canale fitto di imbarcazioni. Dalla galera più imponente, con vogatori negri, alla più semplice barchetta, con un unico remo. Sulle fondamenta che lo costeggia si distinguono un turco, con il caffettano arabescato, e almeno tre donne, inconfondibili, poiché svettanti sulla folla grazie a quegli zoccoli altissimi che ho visto calzare. Bionde, come son bionde quasi tutte le ragazze di qui, non per nascita come in Germania, ma grazie all'abitudine di esporre i capelli al sole, bagnati di essenze stesi su quegli strani cappelli a larga tesa, privi di cupola. Subito dietro questa ci sono altre due tele, di dimensioni identiche, due ritratti incompleti, uno di donna e quello di un magistrato. La donna è ingioiellata dalla testa ai piedi, addirittura pendagli d'oro alle orecchie, secondo l'uso delle femmine di Venezia di esporre su tutto il corpo un numero spropositato di gioie, perle e pietre preziose. Il magistrato porta una toga di colore acceso, che dovrebbe indicare l'appartenenza a una delle tantissime congreghe del Serenissimo Governo. Dalle bestemmie alle risse, dai forestieri alla vita notturna, non c'è aspetto della vita dei veneziani che non sia regolato da una particolare magistratura. Pietro Perna sostiene che il sistema è davvero complicatissimo, tanto che il popolo ha probabilmente rinunciato a capirci alcunché e si astiene dal protestare e contestare il potere, indirizzando tutte le tensioni ai giochi più brutali, come la caccia dei tori, le risse tradizionali tra Castellani e Nicolotti per la conquista di un ponte a suon di pugni e bastonate. Una cornice preziosa, con stucchi e trafori, avvolge un quadro alquanto misterioso. La laguna vi appare ingombra di imbarcazioni di ogni tipo, tra le quali ne spicca una, ornata di drappeggi e colori, dall'alto della quale un uomo che potrebbe essere il doge fa un gesto strano, verso il mare aperto. «Vi interessate di pittura, compare?» La voce stridula di Perna mi sorprende alle spalle. O piuttosto è il soggetto della tela a stupirvi. Indico la figura al centro del dipinto. Il doge, è vero? In serenissima persona, nell'atto di sposare il mare, gettando un anello d'oro tra i flutti, come è tradizione per la festa della Senza, l'ascensione della Vergine. I veneziani vanno pazzi per questo genere di rituali. Mi stringe la mano e si allarga in un sorriso. Benvenuto a Venezia. Felice di rivedervi, Messer Pietro. Ora che siete qui, spero mi farete da guida in questo labirinto. Ancora non m'è riuscito di orientarmi. E se in cambio potrò esservi utile a qualcosa... Lo sguardo circospetto si fa vicinissimo. Ecco, potreste... È per via di una signora, capito? Ho qui una lettera per lei, ma non posso portarla alla sua domestica, che se il marito dovesse vedermi diventerebbe particolarmente nervoso. Mi domandavo se voi non sareste tanto gentile, senza dare troppo nell'occhio, si intende. Mi offrireste finalmente la cena che mi avete promesso a Basilea? Chiedete, vi sarà dato, amico mio. Un cuore pazzo d'amore, non bada spese.